Noi possiamo fare anche un po' di digitopressione? Di sicuro si trova tre dita sopra la tabacchiera anatomica. La tabacchiera anatomica è quel punto, praticamente sul polso della zona del radio. Tre dita indietro dove flettiamo il polso. Dove flettiamo il polso? Io non ho capito, scusi, io ho davanti a me la mia mano. Hai davanti a te la tua mano, è attaccata a un braccetto, al polso. Perfetto, tu guarda sul prolungamento del pollice. Sì. Dove, piegando il polso verso il radio, sì, quella è la tabacchiera anatomica. Ah, che c'è una fossettina, perché mettevano qua il tabacco? Mettevano il tabacco per farlo. Tre dita dietro questo punto, sì, sul lato del radio, lì c'è il settimo punto del meridiano del polmone. Ti racconto questa, si chiama lieque, significa riaggiustare qualcosa di sbrecciato. È un punto che tende a riaggiustare la sbrecciatura nella circolazione energetica del nostro corpo. Strofinare questo punto, facendolo leggermente arrossare, è un modo per abbandonare, per lasciare andare le cose. È il punto del perdono. Immaginalo figuratamente, è aprire le mani e lasciare andare le cose, è dire ma sì. Questo punto permette di aiutare a fare tutto questo, permette di perdonare. Noi lo trattiamo in sanguinamento, ma in realtà la prima modalità di utilizzo di questo punto era proprio in strofinamento. Strofinarlo con un dito inizialmente. Sì. Infatti lo sto facendo. Si utilizzava. Diventa troppo buona. Rappresenta un modo per riequilibrare, è uno dei punti sacri della medicina cinese, è uno dei 5-6 punti più importanti, il settimo punto del meridiano del polmone, che si chiama riaggiustare qualcosa di sbrecciato, quindi uno dei punti più sacri, perché niente è più importante, o comunque poche cose sono più importanti di perdonare, cioè lasciare andare i nostri sensi di colpa, lasciare andare i nostri rancori. Questo permette di riaggiustare questa linea energetica che si chiama vaso cintura, permette di riaggiustare una cosa che aveva detto un nostro ascoltatore, il nostro io, nostro io che si trova al centro del nostro petto, dove noi mettiamo il dito per indicarci, nessuno di noi lo mette nella testa o nelle ginocchia il dito, lo mettiamo al centro del torace. Questo punto riaggiusta queste linee energetiche, riaggiusta queste funzioni e ci fa sentire più leggeri. Provare rancori, quindi verso gli altri, provare sensi di colpa, quindi tensione verso se stessi, altera la circolazione energetica fra l'alto e il basso, fra la destra e la sinistra, fra la superficie e la profondità.